Europa 24. Cari ascoltatori, un buongiorno da Gigi Donelli. Il Belgio si è detto pronto a subentrare alla Gran Bretagna nella presidenza di turno dell'Unione Europea prevista nel secondo semestre del 2017, quando saranno ormai in corso i negoziati per la Brexit. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri belga, Didier Van der Salt. La Gran Bretagna rinuncia al suo semestre di presidenza del Consiglio Europeo previsto per il 2017. La decisione è stata comunicata nel corso di una telefonata dal premier britannico Theresa May al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. La decisione era d'altra parte scontata, dato che sembrava insostenibile che Londra detenesse la presidenza di turno negoziando contemporaneamente l'uscita dall'Unione. Tempi e condizioni della Brexit sono anche al centro della prima visita in Germania del premier britannico, che domani vedrà il presidente francese François Hollande. L'argomento è anche al centro degli incontri che si tengono alla Casa Bianca in queste ore, dove si è recata una delegazione dell'Unione Europea. Finora abbiamo registrato un'ampia convergenza con l'amministrazione Obama e con i vari regolatori americani, ha detto l'eurodeputato Roberto Gualtieri, presidente della Commissione del Parlamento Europeo per gli Affari Economici e Finanziari. Secondo Gualtieri, i cambiamenti che ci saranno non saranno tutti negativi per l'Unione Europea. C'è la consapevolezza, ha detto, che ve ne saranno anche di positivi, con pezzi del sistema finanziario che si trasferiranno nel continente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo bisogno di una Brexit calma, ordinata, un divorzio di velluto, così lo ha definito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di un colloquio telefonico con il premier britannico Theresa May. May dovrebbe recarsi domani a Berlino, giovedì a Parigi, nelle sue prime visite all'estero dopo la successione a David Cameron. Al momento non è invece prevista alcuna missione a Bruxelles. A Bruxelles invece l'alto rappresentante UE per la politica estera di sicurezza Federica Mogherini e il premier serbo Aleksandar Vučić hanno salutato con soddisfazione il progresso importante compiuto da Belgrado nel suo cammino verso l'integrazione europea. Mogherini e Vučić, dicono i media serbi, si sono incontrati a Bruxelles all'indomani della conferenza intergovernativa che ha consegnato e segnato di fatto l'apertura del negoziato di adesione appunto di Belgrado, e sono stati aperti due importanti capitoli, i famosi all'interno della burocrazia europea, capitoli 23 e 24, relativi alla giustizia, ai diritti fondamentali, alle libertà individuali e alla sicurezza. Ucraina invece, 7 soldati uccisi, 14 feriti nel conflitto del Donbass. Lo fa sapere il portavoce dell'amministrazione presidenziale ucraina Andriy Lysenko. Secondo ukrainska Pravda, 4 militari sono morti a Zaisevo, 1 a Vodiani, 2 a Krimskie. Questi ultimi viaggiavano su un mezzo saltato in aria. E ieri visita del primo ministro ucraino Volodymyr Groysman, che ha incontrato il presidente europeo, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e Federica Mogherini. Intanto a Kiev, a seguito di un'esplosione, è stato ucciso ancora un giornalista noto nell'ambiente internazionale. Si tratta di Pavel Sheremet, classe 71, vincitore di alcuni importanti premi giornalistici europei per la libertà di stampa. Secondo l'ukrainska Pravda, per cui lavorava, la vettura è esplosa mentre il reporter aveva appena lasciato casa sua. In particolare Sheremet era noto, diciamo, nell'ambiente per avere sfidato il proprio governo, quello bielorusso, e per avere svolto una serie di reportage molto importanti proprio all'interno dei sistemi di Bielorussia, Russia e Ucraina. Con questo è tutto per questa edizione, l'appuntamento a domani, adesso naturalmente l'appuntamento consueto con tutti i convocati. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.